известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Time is of the essence. We cannot afford more setbacks and delays or regrets about what might have been had different decisions been made. Non possiamo più permetterci ritardi o rinvii, potremmo pentircene amaramente. Così ha parlato Hillary Clinton sulla strada di Israele, dove in queste ore, nell'ambito della conferenza dei donatori per la ricostruzione di Gaza. E da qua, insomma, da un osservatorio lontano, ma che cerca di essere attento, ci sono due sensazioni, due sentimenti che corrono un po' paralleli. Da un lato una certa perplessità per la reale funzionalità di questa conferenza, una forma di scetticismo su cui già ieri abbiamo speso dei commenti, ma dall'altra parte la sensazione che l'entrata in gioco di Hillary Clinton nei panni di segretario di Stato americano, ormai attivamente, sembra molto seriamente coinvolta nel procedimento israelo-palestinese, abbia un segnale, un segno di credibilità particolare, sia forse il segno di una possibile svolta o addirittura di un salto di qualità. Ne parliamo oggi in apertura, ma prima vi do qualche notizia relativa a questo scenario. Prima di tutto una dichiarazione del segretario di Stato che dice che i tiri razzi da Gaza su Israele devono cessare e che nessuno Stato resterebbe passivo davanti ad attacchi contro la sua popolazione. Poi un'altra dichiarazione di Clinton: un cessate il fuoco duraturo nella striscia di Gaza deve essere un primo passo verso la pace, e questo l'ha detto a conclusione di un colloquio col capo della diplomazia israeliana, Tzipi Livni. E ancora la notizia che nel frattempo, mentre queste parole venivano pronunciate, aerei israeliani sono tornati a bombardare i tunnel del contrabbando di Rafah, al confine tra la striscia di Gaza e l'Egitto, e nelle stesse ore un razzo è stato lanciato dalla striscia di Gaza contro il territorio israeliano. Per fortuna è caduto in un campo vicino Ashkelon, non ha fatto danni. Si segnala anche la presa di posizione di Hamas nei confronti della conferenza dei donatori di cui sopra, una presa di posizione che esprime insoddisfazione. Hamas afferma che i partecipanti alla conferenza di Sharm el-Sheikh, con in testa l'amministrazione americana, avrebbero usato l'enorme bisogno di ricostruzione a Gaza a fini politici per esercitare pressioni e un ricatto su Hamas. Nel frattempo c'è naturalmente uno scenario interno israeliano assai complesso, post-elettorale, ma assai intricato, con Benjamin Netanyahu, il premier designato dello Stato ebraico, che sostiene un'agenzia potrebbe esprimersi a favore dei negoziati politici con i palestinesi, fino ad ora sempre messi in secondo piano rispetto alle famose soluzioni economiche delle quali abbiamo parlato anche ieri. Tutto questo lo commentiamo ora, e anche credo delle notizie dell'ultima ora lo commentiamo insieme a Maria Grazia Enardo, ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, insegna storia di Israele moderno e è in collegamento telefonico con noi. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio. Prima di tutto, sei d'accordo su questo, nonostante i punti irrinunciabili, insomma, nonostante le difficoltà innumerevoli, ma che questa discesa in campo, dal punto di vista della competenza e forse anche dell'attendibilità di Hillary Clinton, possa essere considerato un reale, e sottolineo reale, fattore nuovo? Certo, anche perché la signora ha detto poco fa che non ha intenzione di perdere tempo. La discesa in campo è credibile perché non solo la signora nel giro di pochi giorni ha visitato o contattato egiziani, israeliani, palestinesi, ma sta mandando due emissari di alto livello in Siria. Ci sono persone incaricate di seguire ad altissimo livello gli aspetti dell'Iran, dell'Afghanistan, del Pakistan, e questo indica che il segretario di Stato e il presidente dietro di lei hanno intenzione di impegnarsi davvero, e a soli 40 giorni o poco più dall'insediamento di Obama questo è veramente importante, tanto più che avevano detto che si sarebbero dedicati di più alla crisi economica, invece no, fanno anche questo. Senti, ma possiamo provare a descrivere in modo un po' complessivo quello che sembra delinearsi come piano operativo di Clinton? Perché di Hillary Clinton? Perché dovremmo, come dire, riporre qualche speranza in più proprio per questo approccio multiplo, ovvero per il tentativo di mettere delle carte su diversi tavoli e poi cercare, credo, a un certo punto di mescolarle tutte insieme? È questo un fattore interessante o in qualche modo innovativo? La signora Clinton non vuole ritardi, questo non significa che tutto sarà fatto in poco tempo. Credo che quello che voglia fare sia essenzialmente due cose. Uno è presentarsi come interlocutore davvero affidabile ed attivo, staccandosi quindi dal periodo Bush. L'altro è probabilmente influenzare i fattori in campo, non tanto Egitto e Siria perché hanno leadership ben delineate e ben salde, ma soprattutto le nuove elezioni che si profilano in Medio Oriente, quelle palestinesi tra alcuni mesi, quelle iraniane cruciali a giugno, quindi deve presentarsi fin da ora ed essere affidabile per chi verrà fuori nei prossimi mesi, nel prossimo anno. Questa questione della conferenza dei donatori di Gaza, abbiamo parlato in apertura di queste critiche, di questa presa di posizione piuttosto stizzita da parte di Hamas. Mi dai una valutazione di quello che è successo a Sharm el Sheikh? A Sharm el Sheikh hanno promesso tanti soldi, poi li erogheranno con tempi e modi che saranno tutti da vedere. Come capita sempre quando sul territorio piccolo dovrebbe arrivare una marea di quattrini, il problema è chi li amministra e come. Non tanto e non solo negli aspetti pratici, ma anche negli aspetti politici, e ancora una volta questo è un macigno colossale che peserà nel laghetto delle elezioni palestinesi di qua a pochi mesi. Hamas ha fama di non essere corrotta come Fatah, e anche questo è un elemento di grande importanza. C'è una notizia che comincia a circolare da parecchie fonti, anche naturalmente dalle agenzie. Si parla di un'ipotesi di un processo a Israele per crimini di guerra presso la Corte Criminale Internazionale. Mi sembra ci sia già stata una presentazione di una richiesta a questo proposito per uso eccessivo della forza. È una notizia che si connette allo scenario in movimento, così tanto per confondere ulteriormente le carte, o è veramente una notizia che invece ha le gambe e ha dei fondamenti reali? Sono soggetti completamente diversi, perché la Corte Criminale Internazionale è un soggetto che non dipende da alcuno Stato, e quindi sono gesti completamente diversi. È importante semmai un altro aspetto americano questa volta, e pare che gli americani stiano considerando la possibilità di dichiarare persona non grata a Avigdor Lieberman per la sua appartenenza, sia pure a 20 anni, a un partito estremista e razzista. Questo sarebbe un forte segnale puramente americano. Per quanto riguarda invece la Corte, sta valutando l'applicabilità delle fattispecie e lo sta facendo di buona lena. Quindi sono tempi ragionevoli quelli per avere un responso in questo senso? La Corte non saprei, perché come tutti gli organismi giuridici hanno a volte bisogno di perizie. Il problema è stabilire esattamente che cos'è l'autorità palestinese, se ha un ruolo da Stato oppure no. Ecco, in questo giro d'orizzonte, per concludere, Maria Grazia, il fronte interno, la scena politica post-elettorale di Israele, dove al di là della notizia che hai appena dato che riguarda Lieberman, che credo sia un fattore, in realtà però poco si sta muovendo, vero? non è che non si tutto muova, si muove, c'è una nulla sorta si muove, di braccio certo. di ferro certo, che certo. a noi sembra assolutamente immobile, certo. probabilmente il braccio di ferro finirà con la formazione di un governo di tutta destra che sarebbe la paralisi, e si, bisogna prendere con preoccupazione le affermazioni di Netanyahu che è disposto a riprendere le trattative con i palestinesi, sono anni che si tratta con i palestinesi, perché il suo obiettivo non è la creazione appunto di un vero Stato, ma di dare soltanto un maggiore miglioramento economico. Quindi un governo di tutta destra appare nelle carte, salvo eventi che al momento non sono in grado di prevedere. Per salutarci ti giro una provocazione che ci ha mandato per SMS un nostro fedele ascoltatore che si chiama Simo, e dice lui non confida molto in Hillary Clinton, ma fa insomma la domanda chiave riguardo questi famosi aiuti, questa valanga di aiuti, ma alla fine chi li gestirà questi aiuti? Maria Grazia. Li gestirà, io spero che li gestiscono i palestinesi, perché questo permetterebbe anche la crescita di una classe dirigente nuova, moderna e motivata. Chiaramente al di là della gestione quel che conta è la supervisione, e la supervisione occidentale è inevitabile, anche perché alla fine hanno uomini e strutture sul territorio. Grazie dei pareri, delle informazioni fornite a Maria Grazia Enardo, che vi ricordo insegna storia internazionale all'Università di Firenze. Restiamo in zona questa volta, avvicinandoci allo spazio di Facebook. Insieme a Maria Grazia Nardo abbiamo cercato di mettere insieme i pezzi di un mosaico estremamente complicato che ruota attorno a Israele, e nella fattispecie attorno a Israele abbiamo fatto ruotare anche l'Express Yourself di oggi, con una storia però insomma un po' particolare. Beh, un terreno scivoloso, minato, tanto per restare sì, sempre abbiamo avuto molte reazioni anche in disaccordo, anche innervosite. La sostanza, abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook un intervento a firma di due chirurghi inglesi, si chiamano il dottor Ghassan Abu Sittah e la dottoressa Sui Ang, che sono due dottori pubblicati, accreditati e quant'altro, probabilmente visto la spedizione cui sono stati protagonisti musulmani, che hanno lavorato a Gaza durante l'attacco israeliano di fine inizio anno e hanno pubblicato un articolo intitolato Le ferite di Gaza, relativo all'utilizzo delle armi e soprattutto a ciò che le armi in questione israeliane provocavano soprattutto nella popolazione civile che si sono trovati a curare, con descrizioni piuttosto particolareggiate e in certi casi anche disturbanti. A noi aveva interessato, Emiliano, questo aspetto fatto, come dire, medico, pur di parte, ma medico. Abbiamo, prima parlando, no, facciamo il nome, l'ipotesi di leggere un articolo di Gino Strada, ecco, Strada sull'Afghanistan, siamo da quelle parti, siamo da quelle parti lì. Poi il problema che ci potesse essere un giustificazionismo o addirittura un sostegno aperto a una parte piuttosto che all'altra è discutibile, opinabile, ma si possono leggere anche documenti di questo genere, come abbiamo ospitato Lorenzo Cremonesi più volte in trasmissione. Infatti molti hanno ricordato poi, ma alcuni no, e ci hanno dato una versione in alcune parti diversa dei fatti, perché poi insomma vogliamo discutere sul numero dei morti, può essere una discussione sicuramente interessante, forse anche un filino macabra. In realtà capire poi in una guerra, quando le guerre si chiudono, quando le guerre chiudono le porte e le mura, capire un po' che cosa possa succedere in una area di guerra è comunque interessante. Abbiamo avuto, come vi dico, molte reazioni e adesso le andiamo ad ascoltare. Express yourself. Allora, naturalmente, detto tutto questo, la nostra tribuna rimane sempre aperta, no? Ci a chi è d'accordo, certo, con noi, chi è di totale disaccordo, esatto, sono i benvenuti. Allora, cominciamo da Giampiero, che si affida nella sua lunga disamina sui numeri, prima di tutto, perché dice 23 giorni di combattimento, fatti conti. 1350 morti, 1,5 milioni di tonnellate di esplosivo, 360 chilometri quadrati di combattimento, 1,5 milioni di abitanti, quindi un rapporto tra esplosivo utilizzato e morti che equivale a un migliaio di tonnellate di esplosivo per ogni palestinese. E poi dice, in tutto questo, con tutta questa crudeltà, fanno soltanto, tra virgolette, ovviamente, 1350 morti. La sua conclusione è: con tutta franchezza, questo articolo è pura propaganda e neanche della migliore. Oh, questo articolo, mi ero dimenticato di dirlo, è stato pubblicato sul Global Health Network di The Lancet. The Lancet è la più prestigiosa rivista medica anglosassone. Questo network accoglie contributi di medici accreditati, appunto, con pubblicazioni come i nostri due signori. Dopo un mese di permanenza nel sito in questione, è stato smontato dal sito, è stato tolto, rimosso dal sito. Alessandro, che è peraltro l'ascoltatore che ce lo ha segnalato, ce l'ha mandato in prima istanza, poi questo articolo, ci siamo accorti, è disponibile dappertutto, anche attraverso il Lancet Global Health Network, dove potete leggere non più l'articolo ma le reazioni all'articolo, sono comunque interessanti. È stato smontato perché i redattori della rivista hanno trovato delle incongruenze, degli errori. Quella che ha appena segnalato il nostro ascoltatore mi sembra tra le più credibili, delle più importanti, sì. Per esempio, invece, Alberto insiste sul nome dei due medici, che sono Abusitta e Suyang, dicendo nomi che lasciano pochi dubbi sulla loro origine e di conseguenza sul loro punto di vista della faccenda. Naturalmente, dice Alberto, punto di vista piuttosto parziale. E poi lui ricorda appunto il famoso programma che avete fatto. Il punto di vista parziale sugli effetti delle armi, sì, utilizzate, non è chiaro questo. Però lui ci ricorda il programma appunto che abbiamo fatto qualche settimana fa con Lorenzo Cremonesi, giornalista che era riuscito ad entrare a Gaza, ma naturalmente una trasmissione non esclude l'altra, non esclude in questione l'articolo di Lancet. Ricordando sempre che questi sono due medici, appunto. Esatto. Poi io chiudo questo primo giro con Mariano, che dice: ho trovato più completa e corretta l'informazione proposta giorni fa dalle Iene in televisione, interviste con entrambe le popolazioni con l'intento di non provare a schierarsi. Io personalmente non mi schiero da nessuna parte, è un altro discorso. Tantomeno. Allora, aspetta, vai avanti. Siamo avanti, allora, Marinella. Marinella, che tra l'altro dice: ammazza, ma come fate a essere così sicuri che sia solo propaganda? Evidentemente è rimasta più colpita non tanto dalle cose che abbiamo detto noi, pubblicato noi, ma dalle reazioni anche roventi che si sono susseguite in giornata su Facebook. Poi però dice: Israele non ha certo contribuito a fare chiarezza, visto che durante gli attacchi non lasciava entrare nessuno, neanche gli aiuti umanitari. Questo è un report medico, per essere equi quelli di Jefferson 2, quindi noi, dovrebbero mettere un report sui feriti israeliani e su eventuali effetti su questi feriti dell'uso di armi non convenzionali da parte di Hamas. Se lo troveremo, pronti a farlo, abbiamo già invitato gli ascoltatori a mandarlo. Paolo dice: davvero ritenete che due medici che scrivono su una rivista di medicina, per quanto autorevole, abbiano titolo per parlare di politica internazionale, di strategie, armamenti e sostanzialmente per dare voce a una propaganda unilaterale? Giulio: si deve commentare un articolo palestinese? Si deve scoprire che le guerre sono schifose? Oppure bisogna dire che Hamas lanciava razzi dai palazzi occupati, non facendo uscire i loro occupanti, minacciandoli di morte? Mukeba, ho dubbi sulla attendibilità dello studio e sulle cifre. Un giorno si parla di danni meno gravi dell'invasione israeliana, un altro giorno ci troviamo di fronte alla distruzione totale. Questa è guerra mediatica. Luigi, abbiamo tentato più volte di regolamentare e umanizzare la guerra con trattati, convenzioni e accordi che venivano prontamente disattesi dopo pochi anni o anche quando l'inchiostro e la firma non era ancora asciutto. Hermes, un articolo, questo contrabbandato per Lancet, che sfiora l'immondo in termini di correttezza e informazione. Sì, dice che è una brutta caduta per Jefferson 2. Siamo caduti. Io non credo che siamo caduti. Io credo che un punto di vista di questo genere, per quanto parziale, sia sopportabile alla curiosità e all'interesse di una persona informata. Poi, insomma, ciascuno la pensa come vuole. Beh, non è il solo che sostiene che siamo caduti. Per esempio, mentre c'è Stefano che sostiene, insomma, che non è rimasto colpito dall'articolo, ma soprattutto è sconvolto dalle reazioni che abbiamo appena citato, ma c'è Fabio che dice: l'eterna lotta tra palestinesi e israeliani dimostra quanto la ragione non sia né da una parte né dall'altra, però la vostra idea di pubblicare questa testimonianza, tra virgolette, evidenzia, secondo me, quindi secondo Fabio, la lucida intenzione della redazione di schierarsi nettamente verso una delle due parti. Ragazzi, di Santoro ne abbiamo già uno e lasciamolo in televisione. Certo, lo lasciamo sicuramente in televisione. Lungi da noi l'idea di schierarci, cerchiamo di dare spunti da piccola trasmissione radiofonica. Adesso su Facebook cosa sta arrivando? Quali siamo? Ben vengano i vostri contributi, i materiali sono a disposizione. Siete pro Israele e Palestina, questo provocano. Pochissimi pareri su quello, sull'articolo. Io vorrei, spero almeno che l'abbiano letto, ecco, spero quello. When he was 25, speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping up the stars from his face, funky little buddy rays. The television man is crazy, same with juvenile delinquent rags. Boys. I'm wishing to God I was there instead of here. How about a war story? Really one of your war stories? Queste sono le voci di un film che ha fatto molto rumore, ha fatto molta sensazione, si chiama Redacted di Brian De Palma ed è il tentativo di portare una di quelle cose difficilissime, di portare una guerra, non dico in corso, ma insomma le cui code assai vivaci ancora si muovono nel mondo, ovvero in Iraq, parliamo di Iraq, al cinema, no? È facile storicizzare, è facile tutto sommato dare una confezione serena, compiuta allo sbarco in Normandia del soldato Ryan. È più difficile fare del cinema su una guerra che non dico che è fuori dalla porta, ma che è sicuramente dentro la televisione, tra l'altro che modifica i suoi scenari. Hollywood ha a lungo affrontato questo problema, capire com'è, come va rappresentata, come va descritta. Hollywood a Los Angeles, si monta in macchina, si fa una autostrada che, se non sbaglio, è proprio quella che porta a Las Vegas gli incalliti giocatori, si gira da una parte in una cittadina piuttosto bruttina che si chiama Barstow, che sta circa a metà strada, e improvvisamente in piena California ci si trova di nuovo in Iraq, o se preferite in Afghanistan, o se preferite in un qualsiasi pericoloso villaggio medio orientale dove la guerra guerra è in corso. Ed ecco che i piani si confondono. Hollywood non è capace, ma forse l'esercito americano che prepara i suoi soldati alla spedizione in Medio Oriente sta trovando meglio degli sceneggiatori, degli scenografi di Hollywood, il modo per raccontare, per rappresentare la guerra. Tutto questo è stato raccontato da un articolo di Guido Olimpio uscito sul Corriere della Sera di domenica, assai interessante, intitolato "Sotto il fuoco talebano per 14 giorni nel poligono Made in Hollywood, così si formano i soldati che poi partono per il Medio Oriente". Noi abbiamo raggiunto Guido Olimpio a Washington, se non sbaglio, in questo momento, per saperne qualcosa di più. Buon pomeriggio, Guido. Buon pomeriggio a voi. Allora, è davvero, come dire, suggestivo e anche assai ben descritto questo tuo articolo, in cui in un certo senso si capisce come, no, la realtà, il reality, la televisione abbia poi influenzato una realtà più drammatica, la più drammatica ci può essere, quella della guerra. Si fanno le prove di guerra in uno scenario iperreale come quello che ci hai descritto nel tuo articolo. Vorrei cominciare a chiederti se a questo punto se c'è anche una narrazione per questi soldati che seguono questo corso di addestramento, ovvero vivono delle avventure che hanno una specie di copione, di canovaccio, come funziona? Certamente, i 14 giorni, che non sono poi così tanti, seguono un copione in qualche modo, perché c'è un addestramento di tipo militare, quindi fanno in pattuglia, affrontano attacchi nella notte, attacchi di suicidi, ma poi anche affrontano come gestire la popolazione, come gestire i rapporti con il sindaco di un villaggio afghano o iracheno. È proprio un addestramento a tema, cioè di poligoni ce ne sono migliaia in tutto il mondo. La caratteristica di questo poligono, che è composto da 12-13 villaggi circa, è che il training è continuo, quindi non ci sono soste, nel senso che ci sono sì delle pause, ma sono delle pause in zona di operazioni, per cui quando si entra nelle basi avanzate ci sono le sentinelle che verificano, non è permesso uscire, entrare, solo le persone autorizzate possono entrare e uscire dalla base, quindi è un realismo è abbastanza alto, abbastanza forte. Gli effetti poi non so quali saranno. Per stare alla vostra introduzione, il Pentagono ha ingaggiato una società di Hollywood, certo, che ha curato le scene, perché le scene sono costruite con dei vecchi container tagliati, poi montati e ricoperti di legno o di sostanze che le fanno poi sembrare delle abitazioni. E chi ha creato questo poligono questo poligono dura tanti anni, ma l'ultimo generale ha detto: ma in fin dei conti lo usiamo noi, ma domani potrebbe usarlo anche Hollywood. Tra l'altro, appunto, la finalità naturalmente di tutta questa operazione, di tutta questa spesa, che sarà certamente ingente, è dare ai soldati americani pronti per la missione il miglior ambientamento possibile a ciò che troveranno, a ciò che ad esempio a lungo, no, è stato raccontato in Vietnam mancava, cioè ragazzi del Midwest che finivano sbattuti in Vietnam non riuscirono neanche a realizzare dove e come muoversi in questi territori. Tu nel tuo sopralluogo hai avuto la sensazione che funzioni, cioè che poco alla volta questi ragazzotti americani capiscono meglio di che si tratta? Parzialmente, nel senso che io ero di fatto embedded, io non è che ho fatto una visita, di fatto io ero embedded con questo reparto, con, certo, un reparto che andrà in Afghanistan fra qualche mese, e quindi dovevo vivere necessariamente con loro e seguire qualsiasi cosa facessero. Da una parte si vede che cercano di capire, ma dall'altra ti accorgi anche che il materiale umano, si sa, è già stato scritto, raccontato, non sono io a scoprirlo, il materiale umano che hanno a disposizione non è che ha poi grandi consapevolezze o grandi conoscenze di dove andrà a operare. Per questo nel poligono, al di là dei combattimenti, bisogna dirlo perché chi non ha letto l'articolo bisogna sottolinearlo, per questo sono state portate delle comparse, certo, comparse, certo, che sono irachene o afghane, più dei disoccupati della città, certo, vicina, che fanno veramente le ultra comparse, possiamo dire così, certo, questo per dargli perché devono scontrarsi, tra virgolette, o scoprire un nuovo mondo per loro, un mondo totalmente nuovo, che quindi devono allenarsi a trattare, appunto, entri in un villaggio, come sono vestite le donne, e quindi dentro questi villaggi del poligono le donne sono velate, camminano dietro gli uomini, come rivolgersi a un capo di un capo religioso, cosa fare davanti a una moschea. Insomma, si cerca di instillare quelle poche nozioni, però capite anche voi, 14 giorni certo. Non bastano, certo, non basterebbero certo. a una persona che già ha una conoscenza relativa dell'Afghanistan e del Pakistan, figuriamoci a dei ragazzi che spesso arrivano da zone dove, diciamo, oppure vengono da un ambiente dove il livello di conoscenza è molto basso. Quindi è un primo passo che il Pentagono ha cercato di fare. Oh Guido, nel tuo articolo abbiamo letto che in questo vero e proprio Truman Show, insomma, nel quale sei stato calato a un certo punto, che hai commesso anche un errore, hai acceso una luce e ti sei fregato da solo, ti hanno sgridato, vero? Esatto, questo purtroppo quando siamo arrivati, vi dico la verità, sono stato diversi giorni, ma da una parte era anche divertente e voglio dire interessante per il mio lavoro, certo. ma ci sono stati anche dei tempi morti, per cui anche 3-4 certo. ore seduto su una jeep in attesa di un ordine. Questo è molto interessante perché anche per me giornalista mi fa capire anche le reazioni di questi soldati, perché anche i soldati aspettavano e quindi diciamo 3-4 ore lì senza che arriva un ordine. Quindi noi raggiungiamo un avamposto vicino a un villaggio e è notte e dice per ora vi dovete riposare, e quindi un ufficiale ci indica una di queste case fatte con i container, insomma molto realistica, che era una finta sede, diciamo così, una sede di un governatorato afghano. Non c'è l'elettricità, entriamo in questa casa assieme ai due sergenti con cui stavo, saliamo, non sentiamo noi, è buio completo, loro hanno una torcia, anch'io una torcia molto piccola, ma quando arriviamo al secondo piano siamo maledetti, ce ne dico di tutti i colori, perché era una postazione di cecchini, noi, e quindi i cecchini avevano paura di essere identificati e non si poteva accendere neanche la luce tattica, che sono quelle luci rosse certo. o verdi che i soldati usano in questi teatri, quindi nel buio più completo siamo dovuti scendere giù. Questo per dirvi fa sorridere, a me è venuto da ridere il tutto, certo. però vi dà l'idea anche della come dire, di cercare di instillare nei soldati qualsiasi aspetto, insomma, nelle normali esercitazioni magari insomma queste cose uno dice ma chi se ne importa, qui invece si cerca di dare un filo logico, quindi una trama che dura appunto continuamente e quindi insomma anche i giornalisti si devono sottoporre a questo, ed è curioso certo. perché loro hanno creato dentro questo poligono anche, diciamo così, delle postazioni giornalistiche, ci sono delle finte truppe televisive e anche queste finte truppe televisive sono una sfida tra virgolette, sono un test per i soldati che si devono abituare a gestire anche delle TV arabe o afghane. Bene, bene, grazie, molte grazie a Guido Olimpio che ci ha raccontato come appunto, come dicevamo in apertura a questo spazio, a un certo punto Hollywood e la realtà si siano andati incontro, poi si siano superati, no? Incrociandosi uno da una parte e uno dall'altra, e Hollywood sia diventata per qualche tempo la realtà di questi soldati poi destinati alla missione. Adesso notizie del traffico e poi le notizie di tutto il mondo. Yes, I am Mother Nature's son. I do what I want and I want what I see. It only happened to me. I'm so free. I'm so free. Way. Do you remember the shape I was in? I had horns and fins. I'm so free. Do you remember the silver walks? You used to shiver and I used to talk. Then we went down to Times Square, and ever since I've been hanging around there. I'm so free. 360 gradi, news dai punti sensibili del pianeta. bello che a margine della prima mezz'ora del programma, devo dire che in base ai messaggi che ci sono arrivati, la tensione, la tendenza più grossa si riassume in questi due messaggi. Andrea: premetto che sono ignorante materia, ma mi spiegate perché dobbiamo ricostruire noi ciò che Israele ha distrutto? Oppure Roberto, ancora più piatto: ma perché dobbiamo dare soldi alla Palestina? Il mondo è un posto complicato, ok? Oh, il mondo è un posto complicato da un po' di tempo, anche se sei una rockstar. Perché se io c'avevo qualche annetto in meno, insomma, come chitarrista degli Oasis, mi sarei proposto. Tanto quelli cambiano chitarrista ogni stagione, magari una stagione me la facevo anch'io, così andavo in tournée in Cina o no? E questo è interrogativo. Non ci andavi, perché sicuramente gli ascoltatori più attenti avranno letto anche sui giornali di oggi italiani che una serie di concerti previsti degli Oasis in Cina sono stati annullati, e il motivo che circolava era sempre quello, il motivo per il quale i cinesi si arrabbiano in qualunque momento e in qualunque circostanza: il Tibet. Infatti gli Oasis avevano dichiarato, insomma, la loro sorpresa, il loro dispiacere per questo divieto, e lo ricollegavano al fatto che Noel Gallagher, che non mi ricordo se era quello che stava con Patsy Kensit o no, era il fratello, non mi ricordo, ma... no, Noel è il chitarrista, Liam è il cantante, okay. Sì. Insomma, Noel aveva partecipato nel lontano 97 ad un concerto per il Tibet libero. I cinesi nel 97, memoria lunga, e quindi hanno detto: no, non venite in Cina. Oggi però c'è una smentita da parte del solito portavoce del Ministero degli Esteri cinese, si chiama Qin Gang, un uomo con un lavoro ingrato, deve dire tutto e il contrario di tutto in qualunque momento. Comunque, insomma, il portavoce del governo, quindi cinese, ha detto che i concerti in Cina degli Oasis sono stati annullati per problemi finanziari, cioè gli Oasis non c'hanno soldi. Almeno secondo il governo cinese. Non incassano, probabilmente la prevendita degli Oasis in Cina va a maluccio. Dunque, Barack Obama. Su Barack Obama ne abbiamo diverse. Cominciamo col dire che si sta preparando. Ecco, gli Oasis non fanno una lira in Cina. Barack Obama, ho la sensazione che farebbe un sacco di soldi in Europa, perché questo suo tour europea è annunciato, tipo quella dei Beatles riformati. Non so. Comunque, naturalmente la data principale, tanto per stare in gergo rock, è il G20, ma ci sono altri appuntamenti che si stanno aggiungendo, e fra questi c'è il suo European Speech of the Year, il discorso europeo dell'anno. Ormai c'ha tutta un'attività di comunicazione assai particolare. Si terrà nel corso della visita a Praga, appunto ad aprile, sulla strada del G20, o forse in uscita dal G20, che è il 2 aprile se non sbaglio, mentre qua il sabato 4 aprile Topolánek, il primo ministro ceco, ha informato che Obama arriverà a Praga. Il premier ceco ha dichiarato che Obama potrebbe incontrare anche il presidente Václav Klaus. E la seconda che vi do è ancora una volta musicale. Sempre Obama, eh? Sentite questa musichetta così un po' saltellina, e saltellina perché questo non è un vero disco, ma è un musical. Perché noi, a forza di stare dietro alle notizie internazionali, non abbiamo fatto l'unica cosa che dovevamo fare: scrivere un musical su Obama. Ma è l'uovo di Colombo, ragazzi. Lo ha fatto questo regista che si chiama Teddy Hayes, si chiama Obama on My Mind, tra l'altro io avrei trovato sicuramente un titolo migliore di questo qua. C'è di mezzo Ruby Turner, che è la vecchia, insomma, gloriosa cantante rhythm and blues che ascoltate, e va in scena da questi giorni fino al 21 marzo in un piccolo teatrino di Londra, si chiama Hen and Chickens, poi si sposta giustamente in un grosso teatrone di Londra, dove faranno un sacco di soldi con questo Obama on My Mind. Io rivoglio la sigla delle notizie perché questa cosa mi ha innervosito. Allora, ma Obama farà dei camei in questo musical? No, non è sempre durante la tournée, sicuramente andrà a vedere il musical. E poi passerà Jefferson 2, sarà nostro ospite, lo possiamo annunciare. Possiamo già confermare. Allora, io invece ti porto e porto tutti gli ascoltatori in un posto che ha il suo perché, anzi molti perché, che è Macao. Oh. che ti fa venire in mente Macao, molte cose. Dove si gioca? I casinò di Macao. E allora, perché Macao, che è rientrato o sta rientrando assieme ad Hong Kong nel... Il nostro tecnico buon compagno gli fa venire in mente. Lo vedo, non lo leggo nel suo... Ricordi di un'altra televisione, neanche lontanissima, sì, peraltro. Vai. Dicevo, Macao assieme a Hong Kong è rientrata, sta rientrando nel grembo materno della Cina, e per evitare sorprese secessioniste, diciamo così, leghiste a Macao, è appena entrata in vigore una legge impietosa, spietata da parte del governo di Pechino, che punisce fino a 30 anni di carcere, quindi veramente pene salatissime, per tutti quelli che compiono crimini di tradimento, secessione e sovversione contro il governo cinese. La notizia arriva dalla BBC, perché naturalmente queste notizie da Pechino non è che circolano liberamente, e comunque, secondo le indicazioni del governo centrale, serve questa legge a completare l'articolo 23, appunto, della legge che regola il ritorno dell'ex colonia portoghese, assieme poi all'ex colonia britannica, cioè Hong Kong, all'interno dei confini cinesi. Questa stessa legge avevano provato a farla entrare in vigore a Hong Kong nel 2003, ma all'epoca c'erano state vibranti proteste. Però a questo punto il fatto che questa legge sia passata indolore, almeno in apparenza, a Macao, lascia poche speranze per la vicina regione autonoma di Hong Kong. Oh, vi avevamo detto che la Casa Bianca 2009, quella di Barack Obama, si era molto tecnologizzata, insomma, che anzi aveva rinnovato un sistema tecnologico che aveva trovato vecchissimo. E vi avevamo detto anche che l'idea dello staff di Obama era di mettere le comunicazioni settimanali, quelle del weekend del presidente ai cittadini, agli americani, su YouTube. Adesso c'è già una correzione di rotta, perché il nuovo messaggio, l'ultimo messaggio di Barack Obama nel weekend è stato diffuso usando una soluzione video diversa. Ciao ciao YouTube, ha detto Barack Obama, non l'ha detto, glielo facciamo dire noi, e passaggio alla piattaforma di distribuzione Akamai, che è un'azienda di web hosting del Massachusetts. Pare che lasciare YouTube sia una reazione, YouTube che fa capo a Google, alle proteste dei difensori della privacy, a cui fin dall'inizio non era andata a genio la sete di Google sui dati di chi naviga su internet. Non si sa se la scelta è definitiva, ma di fatto per adesso divorzio fra Obama e YouTube. Hai qualcos'altro? Hai facoltà. No. Ma torno sul Tibet, perché avevo anche dato notizia nei giorni scorsi dei disordini nelle Sichuan, zona vicinissima alla regione autonoma del Tibet. La Cina smentisce ogni tipo di manifestazione di protesta, dice che non c'è stato nessun monaco che si è dato fuoco, e quindi insomma rimane il mistero. Che non c'è stato. Non c'è stato. Pechino nega tutto. Pechino nega tutto, mi piace come titolo, anche per un musical, per esempio. Adesso ci hanno fregato Obama nega tutto, ci hanno fregato Obama, com'era quello di Obama on my mind, facciamo Pechino nega tutto, no? Vedi mai. Comunque, questo è Jefferson 2, l'arte della svolta. Stefano Pistolini, Emiliano Enrico, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi. La mail è jefferson2@radio24.it. I famosi siti, pagine Facebook. Una si chiama, quella per comunicare con noi, si chiama Redazione Jefferson 2, con 2 scritto in parola, e la Bacheca, dove si discute, da cui partono le nostre proposte di focus, di dibattito, è Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Iscrivetevi per partecipare. La puntata di oggi la trovate sul sito della radio, in MPEG, in podcast, in replica a mezzanotte. E invece la diretta, come sempre, vi aspetta alle 4 nella piovosa Roma di domani. Speriamo di no. Speriamo che non piova. Sure, 生涯心，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆。